Entrò Lois, quieta e dignitosa. Entrò Natti, impassibile e rigida come un pezzo di legno, senza cenni di intesa o traccia di sogghigni. Solennemente richiamando i suoi pensieri vaganti, il pastore Nolan si inginocchiò in mezzo a loro tre per pregare. Era un uomo buono, di fede sincera, e qui l'unica cosa contraffatta è il suo nome, che in seguito seppe interpretare coraggiosamente la sua parte nell'orrenda prova a cui fu sottoposto. E se allora, prima di attraversare il fuoco della persecuzione, le fantasie che assediano i cuori giovani penetrarono anche nel suo, noi oggi sappiamo che non sono peccato. Ma ora prega devotamente, prega con tale fervore per se stesso, con tale senso della necessità e delle debolezze della sua anima, che le ascoltatrici hanno la sensazione che una preghiera e una supplica siano salite in cielo per ognuna di loro. Persino Natti mormorò le poche parole che conosceva della preghiera, nomi e verbi pur sconnessi e disarticolati che la povera creatura diceva spinta da un senso di reverenza sconosciuta. Lois, da parte sua, si alzò consolata e rafforzata, come mai le preghiere particolari del pastore Tappau l'avevano fatta sentire. Ma Faith singhiozzava ad alta voce, quasi istericamente, e non faceva alcuno sforzo per alzarsi, ma rimaneva prostrata sulle braccia tese, abbandonate sulla panca. Lois e il pastore Nolan si guardarono per un istante, poi Lois disse: «Signore, dovete andare, mia cugina non è stata bene negli ultimi tempi e certamente ha bisogno di star calma più di quanto non abbia fatto oggi». Il pastore Nolan fece un inchino e lasciò la casa, ma ritornò subito dopo, socchiudendo la porta, ma senza entrare, disse: «Sono tornato a chiedere se casomai posso passare stasera per sapere come sta la giovane padrona Hickson». Ma Faith non lo sentì, stava singhiozzando più forte che mai. Perché l'hai mandato via, Lois? Mi sarei sentita subito meglio. E poi è passato tanto tempo da quando l'ho visto l'ultima volta. Aveva il viso coperto mentre diceva queste parole e Lois non riuscì a sentirle distintamente. Avvicinò il viso alla testa di sua cugina, appoggiata alla panca, per chiederle di ripetere ciò che aveva detto. Ma nell'irritazione del momento e forse eccitata dalla gelosia nascente, Faith respinse Lois con tale violenza da farla battere contro lo spigolo duro e aguzzo. Gli occhi le si riempirono di lacrime, non tanto per la contusione alla guancia, quanto per lo stupore doloroso provato, vedendosi respingere dalla cugina, proprio mentre sentiva per lei tanta simpatia e affetto. Per un attimo Lois si arrabbiò, proprio come una bambina. Ma alcune parole della preghiera del pastore Nolan ancora le risuonavano all'orecchio e pensò che sarebbe stato un peccato non lasciarle sprofondare nel suo cuore. Non osò, comunque, chinarsi di nuovo ad accarezzare Faith, ma rimase quieta accanto a lei, in dolorosa attesa, sinché, sentendo un rumore di passi alla porta di casa, Faith si alzò in fretta e corse in cucina, lasciando Lois a parare l'urto del nuovo venuto. Era Manassè, tornato dalla caccia. Era stato via 2 giorni con degli altri giovani di Salem. Si trattava quasi dell'unica occupazione che riusciva a sottrarlo al suo isolamento consueto. Vedendo Lois e sola, si fermò di colpo sulla porta, poiché di recente lei lo aveva evitato in tutti i modi possibili. «Dov'è mia madre?» «A una riunione di preghiera dal pastore Tappau. Ha portato Prudence con sé. Faith era qui un attimo fa. La chiamo». E Lois si stava avviando alla cucina quando lui si mise tra lei e la porta. «Lois», disse, «il tempo sta passando e non posso aspettare più a lungo. Le visioni vengono a me sempre più fitte e la mia vista si fa sempre più chiara. Solo la notte scorsa, accampato nella foresta, ho visto nell'anima, tra la veglia e il sonno, lo spirito venire e offrirti in sorte 2 vesti. Una bianca come l'abito di una sposa, l'altra rossa e nera, che interpretata significa morte violenta. E quando hai scelto la seconda, lo spirito mi ha detto: vieni. E io sono venuto e ho fatto come mi ha detto di fare. L'ho messa su di te con le mie mani, come è prestabilito, se non vuoi ascoltare la voce e divenire mia moglie. E quando la veste nera e rossa è caduta a terra, eri come un cadavere di 3 giorni. Sta attenta, Lois, finché sei in tempo. Lois, cugina mia, ho visto tutto in una visione e l'anima mia è avvinghiata a te. Come vorrei salvarti». Era profondamente convinto, appassionatamente convinto. Qualunque cosa fossero le sue visioni, come lui le chiamava, vi prestava fede, e la sua fede infondeva un senso di altruismo all'amore per Lois. Lei lo sentì in quell'attimo, come se prima non le fosse mai accaduto, e le parve che si contrapponesse alla ripulsa appena subita da parte della sorella. Le si era avvicinato e le afferrò la mano, ripetendo nel suo modo selvaggio, patetico e sognante: «E la voce mi ha detto: sposa Lois!» E Lois era più incline a calmarlo e a ragionare con lui di quanto non fosse mai stata da quella prima volta in cui gliene aveva parlato, quando Grace Hickson e Prudence entrarono nella sala dal corridoio. Al ritorno dalla riunione di preghiera erano passate dalla porta posteriore, il che aveva impedito di sentirne i passi. Ma Manasseh non si mosse né si girò. Tenne gli occhi fissi su Lois come per vedere l'effetto delle sue parole. Grace venne avanti in fretta e, alzando il forte braccio destro, colpì le loro mani unite e, nonostante l'appassionata stretta di Manassè, le divise. «Che significa?» disse, rivolgendosi più a Lois che a suo figlio, gli occhi infossati fiammeggianti d'ira. Lois aspettava che fosse Manassè a parlare. Solo pochi attimi prima le era sembrato più mansueto e meno minaccioso sull'argomento di quanto non fosse stato negli ultimi tempi, e non voleva irritarlo, ma lui non parlava e sua zia, piena d'ira, era in attesa di una risposta. Ad ogni modo, pensò Lois, se sua madre si pronuncia, l'idea che ha in mente verrà a cadere. «Mio cugino mi vuole sposare», disse Lois. «Te?» E Grace indicò sua nipote con un gesto di disprezzo estremo. Ma allora Manassè parlò. «Sì, è predestinato, la voce l'ha detto, e lo spirito l'ha portata a me come mia sposa». «Lo spirito? Uno spirito maligno, allora! Uno spirito del bene avrebbe scelto per te una giovane pia tra la tua gente, non una ragazza come lei, papista e straniera! Una bella ricompensa, signorina Lois, per tutte le gentilezze ricevute!» «Davvero, zia Hickson, ho fatto quanto era in me, mio cugino lo sa, per dimostrargli che non posso essere sua, gli ho detto», disse arrossendo ma determinata a dire tutto, «che sono quasi promessa a un giovane del nostro villaggio a casa e, anche non tenendone conto, per il momento non desidero il matrimonio». «Desidera piuttosto di convertirti e di ravvederti. La parola matrimonio non si addice alla bocca di una vergine. Per quanto riguarda Manassè, gli parlerò quando saremo soli. E tu, intanto, se hai detto la verità, non buttarti sulla sua strada, come ti ho visto fare sin troppo spesso negli ultimi tempi». Il cuore di Lois bruciò all'ingiusta accusa, poiché sapeva quanto aveva temuto ed evitato il cugino, e quasi si aspettava che lui smentisse le parole di sua zia. Tornò invece su quell'unica idea fissa. «Madre, ascolta, se non sposo Lois, io e lei moriremo entro l'anno. Non mi importa della vita. Prima d'ora, tu lo sai, ho cercato la morte». Grace rabbrividì e per un attimo fu soggiogata da ricordi di antico orrore. «Ma se Lois fosse la mia sposa, vivrei, e a lei sarebbe risparmiata quell'altra sorte. L'intera visione si fa più chiara di giorno in giorno, eppure, quando cerco di capire se sono tra gli eletti, tutto è buio. È stato Satana, non Dio, a inventare il mistero del libero arbitrio e della predestinazione. Ahimè, figlio mio, anche in questo momento Satana si aggira tra i devoti, ma lascia stare le vecchie dispute. Purché non ti agiti di nuovo, avrai Lois in moglie, anche se il mio cuore voleva ben altro per te». «No, Manassè», disse Lois, «ti voglio bene, come a un cugino, ma non potrò mai essere tua moglie. Zia Hickson, non è giusto ingannarlo così. Se mai mi sposo, lo ripeto, sono promessa a uno in Inghilterra». «Zitta, ragazza, sono io la tua tutrice, ora che mio marito è morto. Hai una opinione talmente alta di te stessa che di sicuro sei convinta che io ti voglia a qualunque costo? Per me non conti se non come una medicina per Manassè, se la sua mente si confonde di nuovo, e i segni li ho visti ultimamente». Era questa dunque la causa segreta dello strano comportamento del cugino che in tante occasioni aveva allarmato Lois. E se fosse stata un medico dei nostri giorni, avrebbe potuto rintracciare qualche elemento comune nel carattere delle sorelle: in Prudence la mancanza di umanità e il gusto perverso di far del male, in Faith la veemenza della passione non corrisposta. Ma Lois ancora non sapeva, come non lo sapeva Faith, che la sua affezione per il signor Nolan non solo non era corrisposta, ma non era neppure intuita dal giovane pastore. Veniva in casa, è vero, e spesso si intratteneva a lungo con la famiglia, li osservava tutti attentamente, ma non dimostrava alcun interesse particolare per Faith. Se ne accorse Lois e E se ne addolorò, se ne accorse Natti e ne fu indignata molto prima che Faith lo riconoscesse di fronte a se stessa e andasse da Natti, la donna indiana, non da Lois, sua cugina, per averne comprensione e consiglio. Non gli importa di me, disse Faith. Gli importa di più del mignolo di Lois che di tutto il mio corpo, gemette la ragazza nell'amaro tormento della gelosia. Zitto, zitto, uccello della prateria, come può fare il suo nido se l'uccello vecchio ha tutto il muschio e le piume? Aspetta finché l'indiana trova il modo di farlo volare lontano. Era questo il misterioso conforto che Natti le dava. Grace Hickson mise in atto una specie di sorveglianza su Manassè, che alleviò di molto l'ansia di Lois per il suo strano comportamento. Eppure, a volte, sfuggiva alla custodia della madre. In quei casi cercava sempre Lois, supplicandola, come nel passato, di sposarlo. Talora, professando il suo amore per lei, più spesso parlando selvaggiamente delle sue visioni e delle voci che sentiva, presaghe di un futuro tremendo. Dobbiamo ora trattare gli eventi che accadevano a Salem, fuori della stretta cerchia della famiglia Hickson. Ma dato che ci interessano solo in relazione al peso delle conseguenze che ebbero sul futuro di alcuni suoi membri, li narrerò concisamente. In poco tempo, prima dell'inizio della mia storia, la morte aveva privato la città di Salem di quasi tutti i cittadini più venerabili e rispettati, uomini dall'esperienza provata e dal giudizio saldo. La gente si stava ancora riprendendo dal colpo di aver perduto uno dopo l'altro i patriarchi della piccola comunità primitiva che in breve tempo si erano succeduti nella tomba. Nel paese erano stati amati come padri e rispettati come giudici. La prima conseguenza negativa di quelle morti si era vista nell'acceso dissenso scoppiato tra il pastore Tappau e il candidato Nolan. Apparentemente era stato sanato, ma non erano trascorse molte settimane della seconda permanenza a Salem del signor Nolan, che la disputa si riaccese da capo e inimicò per sempre molti che sino ad allora erano stati uniti da legami di amicizia o parentela. Presto comparvero manifestazioni di questo stato d'animo anche nella famiglia Hickson. Grace, infatti, parteggiava impetuosamente per le dottrine più tetre del pastore anziano, mentre Faith era una sostenitrice appassionata, anche se impotente, del signor Nolan. La crescente fissazione di Manassè sulle sue fantasie e sull'immaginaria facoltà profetica lo rendeva relativamente indifferente a tutti gli eventi esterni, pur non aiutandolo a tradurre in realtà le sue visioni, né a chiarire il mistero degli oscuri dogmi su cui aveva speculato troppo a lungo perché non ne risentisse nella salute del corpo o della mente. Prudence, da parte sua, godeva nell'irritare tutti, sostenendo le opinioni più decisamente avversate da ognuno e riferendo malignità a chi meno vi avrebbe prestato fede e si sarebbe indignato alle sue teorie. Il tutto con una pretesa inconsapevolezza di provocare reazioni simili. Si discuteva animatamente se sottoporre alla corte generale le difficoltà e i contrasti della congregazione e naturalmente le due fazioni speravano che in quell'eventualità il pastore rivale e il partito che lo sosteneva avessero la peggio nella disputa. Così stavano le cose sul territorio municipale quando un giorno, verso la fine di febbraio, Grace Hickson ritornò in uno stato di violenta agitazione dalla consueta riunione di preghiera che si teneva settimanalmente in casa del pastore Tappau. Appena entrata si sedette dondolandosi avanti e indietro. Faith e Lois smisero di filare, stupite del suo turbamento, e non osavano rivolgerle la parola. Infine Faith si alzò e chiese: «Madre, che c'è? È successo qualche malanno?» Il vecchio viso fiero e arcigno era sgomento. Mentre pregava, gli occhi parevano colmi d'orrore e le lacrime le scendevano sulle guance. Sembrava quasi che stesse lottando per recuperare il senso della consueta vita familiare a cui era tornata prima di riuscire a trovare le parole per rispondere. Malanno! Figlie! Satana è qui intorno, è qui vicino! L'ho appena visto tormentare due bambine innocenti come un tempo assillava gli indemoniati di Giudea. Per opera sua e dei suoi servi, Esther e Abigail Tappau, in preda a spasimi convulsi, si sono contorte in forme che ho paura di ricordare. E quando il padre, il pio signor Tappau, ha iniziato a dire parole di avvertimento e preghiera, hanno ululato come gli animali selvaggi della terra. Davvero Satana si aggira tra noi. Le bambine continuavano ad invocarlo come se fosse stato lì accanto. Abigail ha urlato che era proprio dietro di me, come un uomo nero. E quando mi son girata a quelle parole, veramente ho visto svanire una creatura come un'ombra e mi son coperta di sudore freddo. Chi può dire dove adesso? Faith incrocia la paglia davanti alla porta di casa. Ma allora, se è già entrato, non gli è più difficile andarsene? Chiese Prudence. Sua madre, senza badarle, continuò a dondolarsi e a pregare, sinché d'un tratto riprese a raccontare. Il reverendo Tappau dice che solo la notte scorsa ha sentito un rumore, come di un corpo pesante, trascinato per tutta la casa da una forza sovrumana. A un certo punto è stato scagliato contro la porta della sua stanza da letto e sicuramente l'avrebbe schiantata se proprio in quel momento non fosse stato assorto in una fervida preghiera a voce alta, e a quel suono si è scatenato un urlo che gli ha fatto drizzare i capelli. E stamattina tutte le terraglie di casa erano rotte e ammucchiate in mezzo al pavimento della cucina. E il signor Tappau dice che a colazione, appena iniziato il ringraziamento, Abigail e Esther hanno strillato come se le tormentasse qualcuno. Signore, abbi pietà. Davvero Satana si aggira tra noi. Sembrano le vecchie storie che sentivo a Bedford, disse Lois col fiato sospeso dal terrore. Faith sembrava meno impaurita, ma del resto la sua antipatia per il pastore Tappau era talmente profonda da impedirle di provare rammarico per disgrazie che colpissero lui o la sua famiglia. Verso sera andò da loro il signor Nolan. Solitamente, dato il fervore dello spirito di parte, Grace Hickson si limitava a tollerare le sue visite e spesso in quelle ore si trovava un'occupazione che le assorbiva tutti i pensieri, impedendole di dimostrare la generosa ospitalità che era una delle sue principali virtù. Ma quel giorno, sia in quanto latore delle ultime notizie sui recenti orrori scaturiti a Salem, sia in quanto esponente della Chiesa militante contro Satana, o di ciò che per i puritani le equivaleva, fu ricevuto con un'accoglienza insolita. Era visibilmente oppresso dagli accadimenti della giornata. Da principio sembrò quasi essergli di sollievo star seduto in silenzio a riflettervi, e i suoi ospiti erano sul punto di spazientirsi nell'attesa che dicesse più di qualche monosillabo, quando prese a parlare. Prego di non vedere mai più un giorno come questo. È come se i demoni che nostro Signore cacciò nel branco di porci fossero stati sguinzagliati sulla terra. E vorrei che fossero solo gli spiriti perduti a tormentarci, ma ho un gran timore che ve ne siano certi da noi ritenuti membri del popolo di Dio che han venduto l'anima a Satana in cambio di una temporanea, esigua parte del suo potere di perseguitare gli altri. Proprio oggi il consigliere Sheringham ha perso un buon cavallo robusto che gli serviva per andare alle riunioni con la famiglia, e sua moglie è a letto ammalata. Forse il cavallo è morto per una causa naturale, disse Lois. È vero, disse il pastore Nolan, ma stavo per dire che mentre entrava in casa, addolorato per la perdita dell'animale, un topo, comparso all'improvviso, è sgusciato dentro così fulminiamente da farlo quasi inciampare. E cercando di prenderlo, l'ha pestato con la scarpa e allora ha urlato come un essere umano in pena ed è guizzato su per il camino, insensibile al fumo e alle fiamme ardenti. Manassè ascoltò avidamente tutta la storia e quando fu conclusa si batté il petto e pregò ad alta voce per la liberazione dal potere del maligno. E per tutta la sera continuò periodicamente a pregare, marchiato nel viso e nei modi dai segni del terrore abietto. Lui, il cacciatore più ardito e temerario di tutto l'insediamento. In verità, l'intera famiglia si stringeva insieme, muta dal terrore, non riuscendo a provare interesse per le consuete occupazioni domestiche. Faith e Lois sedevano con le braccia allacciate, come un tempo, prima che l'una diventasse gelosa dell'altra. Prudence, bisbigliando, faceva domande paurose a sua madre e al pastore sulla comparsa di quegli esseri e sul loro modo di infliggere tormenti. E quando Grace chiese al pastore di pregare per lei e per la sua casa, innalzò una lunga, fervente supplica perché mai nessuno di quel piccolo gregge precipitasse nella perdizione senza rimedio, macchiandosi del peccato imperdonabile, il peccato di stregoneria. 3. Il peccato di stregoneria per noi È argomento di lettura e di osservazione distaccata, ma a stento possiamo immaginare il terrore che provocava. Qualsiasi azione impulsiva o inconsueta, qualsiasi impercettibile disturbo nervoso, qualsiasi sensazione molesta o dolorosa era notata, e non soltanto da chi si trovava vicino al sofferente, ma anche da quella stessa persona, chiunque essa fosse, che agiva o subiva, discostandosi anche minimamente dalla norma. Lui o lei, infatti il presunto soggetto era più frequentemente una donna o una ragazza, sentiva il desiderio di un cibo insolito o un'insolita voglia di muoversi o riposare, poteva avere una contrazione alla mano, un piede addormentato, un crampo alla gamba e il dubbio tremendo si poneva immediatamente. Qualcuno sta esercitando il suo potere malvagio su di me con l'aiuto di Satana? E forse il pensiero proseguiva così. È già abbastanza odioso sentire che a mia insaputa qualcuno può infliggere sofferenze al mio corpo per farmi del male, ma cosa accadrebbe se Satana ne accrescesse ancora di più il potere, tanto da intaccarmi l'anima, infondendovi pensieri ripugnanti che mi spingano a compiere azioni che ora aborrisco? E così via, sinché proprio il terrore di ciò che poteva accadere e il continuo indugiare dei pensieri, pur nell'orrore, su certe eventualità, che perlomeno erano ritenute tali, realmente finiva per infettare l'immaginazione, che era quanto all'inizio avevano tanto temuto. Inoltre vi era una vaga incertezza su chi potesse essere contagiato, qualcosa di molto simile allo sfibrante terrore della peste, che spingeva alcuni a ritrarsi con paura irrefrenabile da coloro che più amavano. La sorella o il fratello, che nell'infanzia e nella giovinezza era stato l'amico più caro, poteva aver stretto un patto misterioso e fatale con gli spiriti maligni della specie più orrenda, chi poteva saperlo? In una simile eventualità era un dovere, un sacro dovere, rinunciare a quel corpo un tempo tanto amato, divenuto dimora di un'anima corrotta e spaventosa nelle sue inclinazioni perverse. Poteva darsi che il terrore della morte potesse provocare la confessione, il pentimento e la purificazione. Ma se ciò non accadeva, si eliminasse allora l'essere maligno, la strega, la si cacciasse da questo mondo giù nel regno del suo padrone, i cui dettami erano compiuti in terra tramite corruzione e tortura inaudite delle creature di Dio. Ve ne erano altri che a questi sentimenti più naturali, ancorché più ingenui, d'orrore delle streghe e della stregoneria, aggiungevano il desiderio più o meno consapevole di vendicarsi di chi avesse recato loro una qualche offesa col suo comportamento. Quando le prove fornite assumono un carattere soprannaturale, non vi è modo di confutarle. Si argomenta così: voi possedete facoltà puramente naturali, io ne ho di soprannaturali. Condannando il reato di stregoneria, ammettete l'esistenza del soprannaturale. Ma conoscendo a malapena i limiti delle facoltà naturali, come potete allora definire quelle soprannaturali? Io dichiaro che nel cuore della notte, quando gli astanti credevano che il mio corpo giacesse in un sonno tranquillo, mi trovavo invece del tutto desto e consapevole, presente fisicamente a un sabba di streghe e maghi presieduto da Satana, dichiaro di essere stato torturato nel corpo perché la mia anima non voleva riconoscerne la sovranità, di essere stato testimone di questo e di quest'altro, di che natura fosse l'apparizione che sotto le mie sembianze dormiva tranquillamente nel letto, non so, ma ammettendo come fate la possibilità che la stregoneria esista, non potete confutare le prove da me fornite. Le prove potevano essere fornite in buona o mala fede, a seconda che il teste le credesse vere o meno, ma chiunque deve rendersi conto del potere immenso e terribile di cui la vendetta disponeva. Inoltre, gli stessi imputati favorivano l'accrescersi dell'orrendo panico già esistente. Alcuni, per paura della morte, ammettevano vigliacamente i crimini immaginari di cui erano incolpati e di cui si prometteva il perdono in caso di confessione. Altri, estenuati e in preda al terrore, finivano per convincersi della propria colpevolezza, sotto l'effetto dell'immaginazione malata, che tempi come quelli inevitabilmente producevano.